vado, poi è finita quella giornata, sì. Aiaia. E anche io ho fatto così, all'inizio stavo a mangiare, però ho cominciato a mangiare forte, proprio verso le 10:30 ho cominciato a mangiare. Tanta fretta non ne abbiamo. Non fa. E l'aria non la porto perché si deve alzare troppo fresco, non fa la faccio riposare, non mangio. Aiaia. Se fosse stato più tardi l'avessi portata a casa, magari sarebbe stata con Liliana, cioè andiamo troppo presto. E dicevo, al massimo la faccio, mi faccio raggiungere poi più tardi, in qualche modo. Io. Va bene, organizziamo al limite, va. Domani me lo porti via? Dai, per un giorno, no, poi se ti portiamo il pesce. Sì, solo per questo mi lo sto mandando. Altrimenti lui prima deve chiedere il mio permesso, perché io sono Hitler. Ah? Vabbè, domani lascia la libera uscita, lo segue chi tutta la settimana. Ascoltami, io la devo vedere tutti i giorni, tu la vedi tua moglie tutti i giorni, io la devo vedere mio marito tutti i giorni, Bene, ragione, ma poi alla fine poi ti stufi, quindi è meglio ogni tanto staccare. È vero. Io, lui, da quando ti ha detto andiamo domani a pescare, io mi sono già organizzata, lo sai cosa vuol dire? Ciao Luca. Senta, alla casa di Alghero, cambio. Oe, Lu. Oe, uè, e poi un po' di mal di gola, di tosse, un po' di raffreddore, ti interessa? 5 euro letto lo sto vendendo. Chiamo? No, per niente, no. Io sono già 2 anni che non ho preso l'influenza, perché l'ultima volta che l'ho presa avevo la febbre a 40. Aspetta, no, sto dicendo a... Ma la senti a Nadia? La metto c'è l'antenna. Cristian. Ho medico RM oggi, non riesco a sentirla. Devo dare un giro di cacciavite, Nadia, a quel maracchino, lì da un giro di cacciavite. Aspetta che glielo dica, c'è un giro di cacciavite adesso. Luca, per me la via è zona negativa, capito? Fammi questo giro a questo baracchino, amo. Ma scomprendi, Lu. Eia! Bene. Ascolta, chi c'è in di là, dall'altra parte, cantando stanno? Ma ci sei. E allora, ci sono io, c'è... tutti, dai, tutti. Ci mancate voi a cantare, o voi dove ci mancate? Lo fa Lino che canta, tutti, io, quando canto bene, quando canto male, ma se me ne frega. Guarda, io dalla prossima settimana ci sono, che mi metto internet, quindi... Così poi mi dai il voto, come canto io, e poi io darò il voto a te. Sì, sono già bello io, per me, io non lo so per te se canti bene, io sono stanatissima, vedi? Tu mi dai 0 a me o io a te? Io, il mio voto mio, personale, mi do 0, perché sono suonata. Ma perché io, senti qui che sono bravo. Allora, siccome lì dentro, ieri era strapiena, facciamo un po' di gente, roba di 20... adesso mi ricordo 25, 27 e c'era, vabbè l'altro giorno questo qua, c'era questo tipo che stava rompendo la scatola, lo prendeva, smettila, nulla, continuava a ridere, stava prendendo per i fondi da Daniele, per come cantava, poi vai a dormire, ma tu a dormire a quello, l'ho bannato, ci ho mandato via. In che fase di te? Secondo me è solito testa di... Basta, una cosa mi se ne scendi, per carità. Tante c'è, aumentate, c'è importante. Eia, no. Dov'è? Ma non per queste cose, devo... È entrato, sei franco, mica c'è... Anche la ragazza non modulando, sono bassissimo. Ascolta a me, non mi ascolti, Cristian, con questo apparecchio. Sono una bomba, no, Ghia. Aspettate un attimino, oh, no, noi stavamo parlando, dimmi. Sì? Ma potete aumentare? Uno vago. Che stai dicendo? Questo va bene. Poi ci passa la portante. La portante è 3. Tu sei quasi 9 adesso, vai. E che sono 4, grazie a te. Ma vanno in bongulata che mi ha già rana, esista. Siamo i bidi. Cazzo di albo. Ma la corso in media c'è. Santiago 3. Cioè non passa Angelino, che è l'Alghero, ma il gusto ci prende, boh, io senti, questa dietro non la capisco. Adesso vado, ti metto l'attacco nella serratura. Non si va per un mito, io, Non passo. Quando la porta lui. Super alla grande. Tu lo senti Angelino adesso? Non dovresti sentire Cristian, Poi Angelino è forte, vai Angelino. Ciao Cristian, guarda, più di così oggi non posso caricare, perché sennò mi tocca spostare tutti i cavi e fare attaccare le altre lavatrici, ma non ne ho voglia, guarda. Metto queste piccole vitamine e già va bene così. Già ti ho sentito, già Angeli. Di Roger, dai, anche io ti ascolto benissimo, dai, un po' basso di segnale, ma la radio la tiro fuori tranquillamente da qua. Va bene, dai, perché ognuno per me è un po' negativa, capito? Sono coperto. No, vai tranquillo che io qua già sono bello aperto. Sento a tutti, vai tranquillo, ti ascolto benissimo. Ehi. Bombolo, ci sei ancora, cambio? Papà, che ci sono. Allora, Roger, adesso migliorata è la cosa. A voglia, da 5 a 7. Figura, ti posso salire ancora di un'altra ancora, però l'altra ancora non la faccio, sennò si spacca tutte le lampadine che sta dentro. Oh, è un bastardo, ne baria a 7, vai. Oh, la prova, 1, 2, 3, 7, 9, 4, 5. No, no, già è 7, aspetta. Gava, gava di Roggero, già va bene. Gava. Gianlu! Cosa vuoi fare? Cazzo, questa qua mi fa passare per un pederasta, cazzo. No, lo so, anche non mi interessa, no, cioè sono problemi di gusti, mica gli ho chiesto, non gli ho chiesto niente, per farti capire che a tenere una macchina è come tenere un figlio, non luci. Ehi, Alu, ma non hai capito per cosa dicevo io, no? Penso che gira gli devo privare le cose, ma lasciatela per lui, non andate a mettere quello che dice. Cazzo di tu vuoi stare ridendo a tu? Ma più vissi. Ma tu? Sei gatta. Ma che ti sei portato lì tu? Adesso lo metto nel fumo e basta, è una bella donna. Lo so, le donne... bisogna saperci fare anche, qui. Non è che sia facile, no? Ma tu sei fidanzato 5 anni mio, e la fidanzata aveva una bella biondina sotto mano, l'ha fatta fuggire pure, vedi? Come un deficiente. Quanti anni hai? 35? Io ero 5 anni fidanzato, la fidanzata era più ragazza fidanzato che da single. Ah, capito. Vabbè, se fra un po' mangiamo le papassine, si sposa Nadia e Angelino. Quando? Che faccio gli auguri? Non si fanno gli auguri? Non lo so, stanno decidendo la data. O quando? Ma quando si sposano faccio gli auguri, quando si sposano però, non adesso. Vabbè, non li puoi fare in anticipo, no? Porta male. Vabbè, Angeli. Ehi, la data, dico la data, te l'ho data, dammi la data. Il 32 febbraio, così è. 32 febbraio dell'anno scorso. Ok, dai. Allora, Cristian, ti va salata. 32 febbraio dell'anno scorso si sposano. Ma, Gianlu! Gioia, dimmi. Ascoltami, ma chi te l'ha detto questa cosa? Che sei da poco fa che lo stai dicendo? Ma di che cosa? Questa cosa che ci dobbiamo sposare? Come l'hai detto? Quando te l'ho detto che mi devo sposare? Non l'hai detto, l'altro giorno stavate parlando di matrimonio, se ti ricordi bene. Stavamo parlando di matrimonio, però mi sono detto che mi devo sposare. Ah, boh, questo l'hai detto tu, adesso mica mi invento le cose io. No, perché sai, pensavo che avevo parlato, io non sapevo niente. No, stavamo parlando così, però ancora non ci dobbiamo sposare. No, ci dobbiamo sistemare ancora. Mica è una cosa brutta, un'offesa, no, non è un'offesa, non è neanche una cosa brutta, è una cosa bella. Infatti, vorrei che vi portassi fortuna su questa cosa, che stai dicendo che mi devo sposare, magari, io lo vorrei tanto, anche domani. Vedi che torni a me. Vabbè, quando una persona le vuoi bene, è logico che pensi anche al futuro insieme a lui, Ci conferma. Se Angelino, dipende tutto da lui, ecco, se ne ha voglia lui, poi... Prima vi conviene convivere, prima, non so, niente fa così, prima convivere, poi vedono un po' se vanno d'accordo. E se sposarsi è un casotto, Gianlu, abbiamo già convissuto noi per 8 anni. Ah vabbè, allora, cedi, quando c'è la possibilità di farlo. No, a parte gli scherzi, avevamo la mia intenzione di sposarci quando eravamo su a Torino, no? Perché io avevo lavoro, lui aveva il lavoro e tutto quanto. Poi c'è stato dove lavoravo a Torino e quindi abbiamo mollato tutto. Siamo venuti qua e... Cara. E vabbè, comunque ce n'è tempo, siete giovani, dai. Siamo piano. Nadia, piano piano si fanno le cose. Quando uno fa le cose in fretta, poi c'è del patatrac. Ehi, Lugari, chi è che sta schiacciando? Angelino, ma mi ascolti o no, però? Se già ti ascolto, sì, ma quando stanno parlando, aspettate a mettere la portante, che io me ne accorgo quando mi mettono la portante. Che è che mi la portante, Angelino? Un giorno. Sì. Ma forse mai, Franco, non se ne è accorto. È certo lui, Angelino. No, vai tranquillo, già ti ho sentito l'offeso, cioè l'ho sentito l'offeso, vai tranquillo, vivi benissimo qua, tranquillo, vai tranquillo. Io sto cercando un pezzettino di filo, ascolta Giri, dimmi una cosa, il filo schermato delle cuffie, qual è? Quale posso mettere? Il filo normale lo posso mettere, quello, cosa ti posso dire? Non proprio quello delle cuffie, ma quello, come si chiama, a Napoli? Quello fine del... adesso mi viene il nome, porco Giuda. Mi fa un'alternata, quando mi attacco l'MB+4 al computer, mi fa un'alternata. Chiama Pomponio. Ma devi usare un tipo di filo apposta per le cuffie, perché sono schermati, in teoria al centro passa, è come il cavo dell'antenna, è uguale, solo che al centro passa il filo induttivo positivo e all'esterno passa il filo negativo, la massa, dai, quella in teoria sarebbe nell'antenna. E in teoria è tutto uno, capito? È tutto unico. Però tu quello che vuoi dire tu non va bene adesso, perché altrimenti dovresti fare una saldatura megagalattica nella cuffia. Siccome le cuffie sono micro saldature, ci va proprio quel filo lì, quello fino con il, diciamo, i due cavi induttivi tutti in uno. Ho capito, infatti stavo cercando uno spinotto, perché poi ne ho un altro. Uno spezzone, piccolo piccolo, ho messo quello, mi fa alternata, l'ho eliminato. Io la posso mettere? Io non so, spinotto stereo, scusa. Perché con quello mi sento bene, con quel microfono lì, dal PC. Adesso vado un po' di cercare qualcosa. Mi sembra di averne uno. Non mi ricordo, ma cavolo, è finito. Vai Franco, riprendi. Eccomi. Dimmi, no, senza sovramodulare, Franco. Dico, ci sei ancora? Un attimo, riprendete voi, sto facendo ancora, riprendo dopo, dai. Ehi, capo, tranquillo, dai, ok, no problem. E comunque, magari è, quello del DP4, per fare quelle modifiche là, sappi che sempre col computer all'interno sono già preamplificati, quindi se metti un microfono troppo spinto, va in saturazione la scheda lì, nel computer, quindi è normale che ti fa quel rientro, ti fa un po' di casino, dai. Ho provato anche lì, va bene, capito, va bene. Penso uno spinotto di quelli a saldare, dai. Uno spinotto di quelli, gli ho levato la plastica da sopra, ho staccato i fili e ho messo altri due fili. E no, va bene, adesso mi si è staccato, mamma mia, che casino. Infatti ho attaccato il saldatore, adesso vediamo un po', non risaldo, perché poco fa stavo cantando e non mi sentivano più. Ma non c'è il microfono normale, io sono pieno qua di questi microfoni di computer, perché in teoria quando lo metti nel computer poi devi fare in modo tale che non ci sia spinta dall'esterno, cioè che il microfono non spinga troppo, a meno che non lo controlli dal servocontroller lì dell'audio nel computer, dove ci sono tutti i volumi, microfono, cuffie, così abbassi un po' il volume del microfono, togli gli estrabassi e un po' il microfono a metà, ma non di più, perché anche io avevo fatto quella prova e mi avevo fatto lo stesso scherzo. Ma le regolazioni sono tutte fatte, tutte. No, va bene, guarda, va bene. Io capita magari che se ci sei anche tu lì, poi te ne renderai conto. Perché, le cuffie me le ho comprate, quelle col microfono, di quel tipo l'auricolare, ce l'hai presente? Così di quelli volanti. Non dice che esco un cupo di radio, non la sto pisando quello. In realtà devo sostituire, perché non vanno bene queste qua. Esco un bel cupo di radio. Per uscire meglio ho attaccato le MD+4. Cioè che non c'ho spinotto, cavolo, non c'ho spinotto. Come faccio? E quello è il casino. C'ho spinotto. Infatti mi sono anche prenotato, vediamo un po'. C'è un'altra persona, poi tocca a me. E altre due, dai. Tocca a me a cantare. Vabbè, eia. Non va bene, dai. Non fare casino, non spaccare niente. Eia. Oh, chi è rimasto in ruota? Cristian, ci sei ancora? Sono qua, mi sto ascoltando, gli spinotti, di stereo pure. E cappa di Roger, dai. Purtroppo parlare così, diciamo, da un microfono all'altro è un casino a spiegare, bisogna farlo vedere sinteticamente di persona le cose. Purtroppo da spiegare è un macello qua. Però, tutto sommato si può fare tutto. Si può fare tutto, iaia. Bombo, ci sei ancora? Ma che ci sto. E via Gianni dove è andata a finire? Qua. Eia, tu gli devi non bere molto mirta, lui. Non è bello Gianni mirto. Al posto suo bevo io. Eia, già lo so, te lo sto scherzando. Perché la so che beve come me il vino. vabbè, un bicchiere di vino non ammazza nessuno. Oh no, ma infatti, figurati. Non volevo fare i nomi, capito? Comunque, un bicchiere di vino a me non mi fa un cavolo. Gianino, mi senti a me? Eia. Ciao. sono buco. Oh, però uno da questa parte, buonasera. Sai che non ho capito bene, frate, parlate un po' dopo vicino al microfono, ripeti. Pierpaolo Vela 1. Ah, sì, che già mi ricordo, è la moglie. Ma Nadia, vicino a te? Cappa, vicino, Adesso faccio la cascetta. La cascetta? Cascetta faccio, dove volete andare voi due domani. Ah, la cascetta, non ho capito. Gianni, lo sai, no, che io c'ho la mia tecnica, mica non faccio baccare. Ah, sei lì dove ci sono le polacche a Platamona, no? Non ce n'è polacche a Platamona. Ci sono, le ho viste io. No? Alla chiedo. Poi c'è anche il bar che ci sono le polacche lì. Dai, non lo sapevo. Adesso lo sai, già ne ti vuoi portare lì in me. Anni, guarda che lì a Platamona andavo a consegnare la merce tutti quei chioschetti. Roberto! Ma no! Ma io ti porto in un bar a fare colazione lì dove andiamo a pescare, che c'erano le polacche. Ehi, cos'è? Quello nella piazzola grande è grande. Ya. Già ho capito chi era. Prima c'era la nonna lì. Io lo so, lo so. E non ci sono problemi. Possiamo andare anche quello là vicino a Marina di Sorte. Come vuoi tu, possiamo andare dove vuoi. Comunque lì al coso dove c'è il presidio militare l'acqua è più alta, tu quando fai lanci sei già, anche se lanci vicino sei già nell'acqua alta. Bello, bello, già va bene, già va bene. Sai che ho preso il coreano che sono quelli appena appena più paciottelli. Li sono arrivati ieri a cose, però sono andato a stand a prendere e ce ne sono due in più. E se c'è una sardina o un pesce frasico, portalo, facciamo i gracchetti di sabbia con quelli lì. Sì, lo trovo. Un pesce frasico ci vuole, lo leghiamo a un bastone, lo mettiamo nella battigia e escono i granchetti. E già lo troviamo, dai, ci do un piede nell'acqua a cazzo tutto lento, vedi come muoio il pesce. Voilà. Yeah. Avanti bombolo! Yeah. Eccomi qua! Guarda, il pesce frasico! Pugnoso, tutto pugnoso proprio! Ma a pesce ho quella roba, ora stai ce lo scherzando! Scherzaci! Ho pescato un giorno con l'estra che era tutto lento di 6 ore e ho preso una bella razza! Ah, ma ha detto un giorno una persona che era quella frequenta che un giorno ha piccato quelle cose col piede della gallina. Sia. Sì. Sia. E ti può colpare quello lo usano. Le zampe, va. È sbagliato, cara. Ma posso dire le zampe, peggio di farra agricola, cara. Ma posso dire le zampe, ho detto i piedi, boom. Grazie. Ci ho fatto anche il caso. Ma c'è qualcuno qua che piace il caso. Ma andiamo a casa, ci vengono con le ginocchia l'agnellino. Ah, mamma mia, gli sta la voce dell'agnone. E con le ginocchia. Ma che l'agnello camminava con le ginocchia. Il barraglicco, vale. Metti il cambio, dai, Angeli. Con i polsi. Gianni! Dimmi no! Ma non è che per caso, invece di andare a pescare, non posso mettere la fucina nell'orecchia adesso, eh? Ah no, tranquilla, no. Quando io vado a pescare non mi porto via nessuno. No, ma non sai perché? Perché a te, da come mi hai raccontato, ci si attaccano tutte. Quindi non è che devo pensare male, no? No, non ti preoccupare, dai. Non è con me, sicurona. Non ti preoccupare. Non mi fido neanche della mia ombra. Oi, mi sa che qua mi alzo presto e vengo anch'io a pescare, altro che... Bella. Così mancanza di esca. Gianni, guarda che se glielo vuoi dire, state a casa, glielo puoi dire, te lo dico per sempre. Stai tranquilla, che io sono tranquilla. Voglio vedere, no, perché sai, io Platamona conosco gente, ho anche vissuto un po' da piccolina e vedo cosa strana. Qui c'è ragione lì con tanto, già me lo dicono. ti dico, venne andiamo in posto dove tu non sai a me. Gianni, tu sono scappata a Mona, All'interno del villaggio, ma è andato tu sì? Sì, sì, tutta la cosa, stai tranquillo. Vabbè, ma la conosci tutte le persone che ci abitano? Parecchi amici lì, e c'è lei che mi conosce anche molto bene. Cavagaba. Vabbè, va, farà la cascetta. Ti diranno, Angelina ha preso 5 orate e già le 10. Ah sì, sei contento, ho visto. Tranquilli, ci sarò io a controllare il tutto, Allora, se ci sei tu siamo a posto. Con me potete stare veramente tranquilli. Io ho visto, faccio la cascetta subito. Ma mai scendo io e me la porto via gli orate dalla spiaggia. Che cazzo? A chi ne prende di più, dai. E neanch'io, dai. Franco, Geri, cambiamo posto domani. Dimmi a Geri. Sì, a capa, già, aspetta. Fra, tu stai andando a pescare? Adesso la vado a un po', mi sto scendendo. L'amico mio, tutto a posto. Sì, dai, via. Mi sta ancora cercando. Papagappa. Tutti spariti, Cristian! Io sono qua, stai tranquillo. In BM? No, sono a casa, quelli che sono a letto. Ah, capo, dove sei dalle parti di mi hai detto, lì, vicino a Platamona, come stai? Platamona, va, sono un po' di buti. A capo di rode, ecco perché mi arrivi un po' bassino, dai. Come quello proprio la d'ombra, ce l'ho a Ghero. E capo, dai. Ma comunque già ti ascolta, dai. Sono basso e devo solo fare l'antenna anche a metro. Va, via. Ebbene, non c'è più nessuno. Lugari è cantando, stai tu, no? La canzone di quella lì. Novembre! Aspetta la città, novembre! Luca! Prendiamo che eri più forte! No, per me è meglio cantare il Vasco, poi. Novembre! Luca sta cantando adesso la canzone di Nostra Mazzutti, più bella cosa non c'è. Mamma mia, mi sembra dimmi, se canta piove. Devo cantare che ormai devo pescare pure io, siamo già del riccio, devo andare. Ma, lo sai che, è altro che non sta piovendo adesso. Sta piovendo domani, non è dato più già. Pure. Ma è bello il cielo, è tutto bello stellato, aperto, c'è anche la luna, cioè perlomeno qua da Ghero già c'è la luna, lì non lo so, a Sassari ci arriva. Ok, qua è a nuvolato, Cos'è tutto questo casino? Non te la posso dire nuvoloso, perché è a nuvolato. Ma noi come italiano siamo fatti a porta oggi, Una nuvolata qua. Guarda che qua mi sta contagiando. Che è roba? Che è fresco, Tu sei bella agricola. Ragazzi, io la chiamo il bip al microfono, È la gallina. Il bip fa cocodè. Va bene. No, va benissimo. È un bel bip, cocodè. Almeno, giusto per cambiare, dai. Cioè, ragazzi, scegli, dai. Ragazza, già lo senti già quando in macchina a Baragricola? Ah, voglia che lo sento. Sì, soprattutto quando è in zona positiva, lì su. Ragazza, è una scienza. Comunque deve essere un personaggio, deve essere un po' in gamba. Non lo conosci in persona? No, non ho avuto modo di conoscerlo. Mi sa che tra lui, Cristian e poi chi altro era l'altro che non ho conosciuto di tutti quanti. Ah, Giulio. Gli altri li ho conosciuti tutti. Kappa. Va. Sono così, ma arrivi un bel. Addirittura. Sono forte Salvatore. Agaba. Ma che ore sono? Le 10. Domani mattina mi devo alzare presto io. Esco a lavorare? Dobbiamo andare a fare un lavoro con Gianni. È vero, a pescare. Ehi, già gli avete messa la puccia in testa quest'altra, mamma mia. Adesso piglieremo la smerilio qui. Vieni, potremmo fare, già lo so io, magazzino del potesse per comprarlo. Però faccio sgubri. Così facilmente. Esatto. Perché ancora non ha capito che dopo che mollo io non deve aspettare che facciano parlare gli altri, sennò schiaccia tutti. Ma già cosa vede? Parla. Che non mi frega, che lo conosco molto bene il pesce io. Ma nel magazzino arriva presto, arriva le pescherici, quindi tu cosa fai a conoscere che non abbiamo pescato lui? Se lo porta le pescherici ogni mattina. E siccome io un pesce fresco non lo conosco, da portarglielo fresco a farglielo vedere. Ma si presumida, no? Vuole fare la furba con me, cazzo? Giuri, ma si è arrabbiata, mi stavo scherzando. No, è arrabbiata, sono. Anche perché se si arrabbia, basta che si prende la sua Batmobile, la sua pucicarretta. È arrabbiata, sono. E stavo scherzando, mi. Bella platavola. Perché domani scendo io a platavola e faccio la testa a cacqua a questi pescatori. Sei sceso, fra, però no, adesso non c'ho mai da far scendere, se no sei molto volentieri. Io non ci ho esca, se no di essere. Oh, vabbè, non ho problemi, io vado, faccio le cose e pescavo le cose. Ma come ci vuole? Al ristorante per i pesci, Franco. Ah, che io pesca a cotte non spendo sul divirmi. Faccio le cose, più le latte, boccone e lancio. E fa anche gratinate. No, e ne tolgo quei bestioni da 2-3 kg. Ma ti ricordi, fra? No. Io, il ristorante per i pesci. Io non ho problemi, buttati picciare e mi gioco. Poi lo prendo al ristorante, tutti avvelenati. Domani. Perché non fare roba? Perché mi metto via a letto. Ho preso pesci da 3 kg, ho buttati picciare anche io. Non so, cosa? Spigole. Oh, artificiale sarà lungo, sembra 10 cm, anche 15. Ah, due ancorette che sono enormi. Bagata. Quello che me l'ha venduto, un negozio ha preso una spigola da 3 kg. Ci preparo il canale a pesca per domani mattina, dai. Così scendo a dare una sussa a questi due allievi. Io sei sceso, però non c'è una chesca qui pronta. Mi spiace. Non ho voglia di scenderci, se no sarei andato, avrei fatto un po' di cose dal Maloasi e le avrei tutte sbucciate, poi file elastico a bocconi e al lancio. Franco, già. Oh. Cosa c'è una mucca lì dentro a casa? Cosa? Cosa c'è una mucca? Allora. Cos'è? Adesso c'ho mucca e pecore, tra un po' le metto anche gli asini dentro. Ma chi gli. E dimmi Nadia. Saluti a Teresa. Elia, Teresa ti saluti da Nadia. Detto grazie. Ti sta guardando, c'è posto per te? No, ecco questo coso del sul karaoke. Karaoke. Ok care. Ma sul computer. Ah, stava cantando quindi, ecco. Allora. Vero. È vero, oi. A me non però. Luca, preparati domani mattina alle 5 e ci andiamo a pescare. Oh, no, mi sento ben male, fra. Ui. Già esatto. Non mi ha fregato, lui deve uscire stasera. Mi ha fregato. Ma meno male che era a piedi. Male. Cucciudere. Sono tutto intasato, fra. Sì, siete al caldo. Anche in dire una sola, non freddo io, per carità, no, oggi è troppo, mamma mia. Così non ci riuscirei a rimanere io. No, l'ho spento adesso. Buriaccia. Non ti credo, senza i muri. E chi vi chiude la porta e ti ci fanno i muscio. 27 gradi. Assolutamente. Adesso l'ho abbassata, l'ho portata a 20. E ti arrestatevi. Mamma mia. Quasi. Mi siete credi con me e me. Quindi ho una malapena, aspetta di col subito. No, se la metto una malapena a Napoli. Sì, ci credi con cameretta. Ma io questa l'ho operata troppo alta, adesso l'ho abbassata, l'ho portata da 20, ma la porto a 18 gradi, va bene, più 18 ha avuto. Se la porto a cameretta la porto sino a 24 e poi spengo. Si poteva stare qua dentro, per carità. L'altro giorno ho messo la cintura sulla finestra, ho trovato uno spiffero di silicone e tutta la casa nella finestra ho messo. Non c'è più spiffero d'aria, Ma questa è la Plata Monaci. Vote, vote. Appagappa. E ne sto arrivando lì adesso. Passaggio. 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po'. Dove senti qui fra, Guarda, la radio con me va bene. È sempre una bellezza. Appa. Ecco, ma Antonio, che fine ha fatto? Non l'ho più sentito. Antonio. Mi ti ha chiesto una cosa, forse non l'hai capita, Franco. Antonio, tuo fratello, che fine ha fatto? Domani è qua a pranzo. Sì, ero convidato, gli ho detto a Franco, non ti ha più sentito, che fine aveva fatto. Ma tutto ci è avvenuto. No, c'era solo l'apparato suo, c'è l'antenna all'apparato ancora. Ma lo stai facendo, ma tu non accendi più ormai. Ma mai? No, la più grana. Quinta dove andrò? A domani, se lo convinco, lo faccio parlare da qui, vai. Diventato mandrone, Antonio, vedi, detto a Franco, sei diventato mandrone. Ah, fra, se domani accendi, ti accendo pure io qui e ti faccio parlare con lui, vai. Ci hanno visto un paio di volte, sono quasi 3 mesi che non l'ho più visto, neanche circolazione qua a Sasso. Oh, cosa sta facendo? Ah, casa sua che è un cantiere giù in cantina, sta mettendo a posto. Questa è una settimana che a casa non sono più a casa. Esco la mattina e rientro la sera. Pagappa, vabbè, saltano la parte mia comunque. E già lo saluto, lì metti come facevo chiamare la baracchina per essere. Se vuole chiamare. Scendi a pescare. Yeah. Gianni! Dimmi! E anche dove vai a pescare? Ma lo so, dobbiamo decidere, ma penso Marina di Soso, quella zona lì. Pagappa. Tranquille. Ma c'è lì, non c'è più. No, vai, vai già, se proprio vuoi pescare, però devi fare un po' di strada a piedi, arrivi alla marina di Sorso, parcheggi la macchina lì e vai sulla tua destra, fai, posso dire, 600-700 metri a piedi, ti fermi. Vabbè. E anche a settimo pettine, vabbè. Dicendo io, peschi bene, ce la fai un po' di strada a piedi, però si pesca bene. Adesso vediamo, va. Decidiamo con Angelino, il mio socio. Non abbiamo voi, andiamo al magazzino, compriamo il pesce, invece che pescare il pesce andiamo a Bionde. E a dove? Ah, ma le bionde fanno male, meglio le brune. E invece la sera la faccio domani mattina mi alzo alle 9 e faccio una bella doccia, poi bello prendo la moto e faccio un bel giro panoramico. E adesso vedo, perché se questi vermi qua me li voglio graziare, se no ci butto via nessuno. La pagata. E poi ci deve essere mare brutto, c'è levante forte, a meno che non cali. E se troviamo maestralino, oppure no, ma c'è il beccio, non levante, il beccio. Non c'è il beccio, non levante che tu non eri, neanche ci sei sceso a procuratore da vedere il mare. No, non hai capito. Allora fatti un salto, giù a Platamone e vedi il mare che c'è. Mare vuol dire che ci facciamo un giro con Angelino, cosa vuoi fare? Purtroppo se c'è mare peschiamo, ci abbiamo anche più 1.100, 200, non c'è problema. Stasera c'era un mare molto grosso, molto brutto, non so se è in attenuazione o se sta peggiorando. Ancora comunque c'è il vento, le nuvole stanno viaggiando velocissime. O di quei piombi d'aceto che arrancano sulla sabbia, di quelli che hanno quella specie di ragno sotto, che si attaccano alla sabbia e si muovono in manco, tipo ancora fa. Allora, sì, ma se c'è il vento è fastidioso, via. Vabbè, c'è la sacca, metto tutto dentro la sacca e non vola niente. Ah, ci arrangiamo, e se c'è il vento pazienza, cosa vuoi fare? Io ci vado pure, vediamo un po'. Piombi d'aceto, mi sì. Ah, ho detto, se molla quella è vante, domani è buono, perché trovi quella risacca calante, capito? Il vento vai, non c'è nemmeno adesso il vento. Senti, vai, quella è vante, no, che non rintendo, prova a fare la platanavi. Non penso, boh, vediamo, domani si vedrà. Domani un altro giorno si vedrà, io vivo la giornata. Aspetta il corso subito. E già, qualcuno si è tirato oggi. Cosa? Qualcuno si è tirato al quadrato. No, negativo. Trappata, ce ne sono stata? No, ancora stavo gareggiando. Ah. Vabbè, fatemi sapere. Allevante ancora. Sta mollando, Da stasera adesso sta calando parecchio. A mezzanotte lo proviamo a mollare quel vento. No, ma guarda le previsioni sul... ce l'hai il televideo? Adesso sono qua in cameretta. Ci vado domani mattina, dovrebbe essere buono già. È il computer, guarda, è il computer, le previsioni. Adesso te lo dico, aspetta. Don Gerino, ci sei? Sì, tu ci sei, sì. Sono qua. Allora, boh, Angelino se n'è andato. Si è chiamato a fare un po' di, diciamo, riposo. Ci vediamo domani mattina presto. Veramente, sì. Guarda, mi sa che non ti giuro anche a pescare, me ne vado. Se non voglio, se no tutto mi vendo, deciso. Gane la pesca. E tutto tanto. Ne ho quella bolognese, come a carbonio. Non l'ho mai usata. Capo, già possono servire sempre quelle cose, dai. Ci andrò a pescare, ma adesso speriamo qua a fare bella giornata, ne ci scendo sabato notte. Posso tenerle ingrassate? Per i saraghi è bello, lui, quando... Per i saraghi, Cristian, quando c'è la schiuma, mi cazzo, roba di saraghi, Billy, non pittore, sposo. Saraghi è... come si chiamano, le? Tenuti. Guarda, torna che siamo andati a pescare, poi abbiamo preso un barracuda, poi. Ma con che cosa? La sardina. Ah, perché il barracuda se li tratta lo prendono col pesce, col rappala. No, non uso con la sardina, la galleggiante pure. Mi l'hai fatta a cavagni in pure. Scusate, poi ho visto, un tipo ha preso un barracuda piccolino con i begattini. Strano. Barracuda ci vuole il terminale in acciaio, se no ti taglia tutto. Cioè, ma tu che l'ha preso? Con le bigattine resta normale pure. È staccato dall'amo. Ma è che ti taglia anche il cavo d'acciaio e barracuda molte volte, il cavo. Già col cavo d'acciaio non ti avvai, come ti fai con la lenta? Non è una cosa così possibile. Franco? No, l'ha fatto, davanti ai miei occhi, mi fai, non sto facendo bugie. Ho detto io il barracuda dall'amo. E non ti ha musicato? Con i pinzi ha già bugato, ma no. Franco, ci sei? Sono un tipo che usa le pinze quando va a pescare. E già le uso. Cosa? Io vado a pescare sempre le pinze appresso. Va, perché io ce le ho sempre. Io c'ho tutta la scatola degli attrezzi, anche le chiavi. Pinze a becchi, l'ho fatta apposta, fini fini i becchi, per tenere l'amo ai pesciolini belli grossi. No, io lo sai cosa faccio, lo stacco dal moschettone quando sono grossi, il pesce lo lascio con l'ammo dentro, poi vado a casa e glielo tolgo. Io glielo tolgo ogni tanto, quando non voglia, se no la taglio ogni tanto e faccio come a tagliarlo. No, quando pesco gli scofoli chiamo a te a toglierlo. E chiamami, come le cucciole a brodo, Nata a polpa, nata a polpi. Andate nei 5 kg di polpo, io se mi basta per tutta la vita, io avrò Maria. Guarda, io ho visto da un amico, ha preso polpi da 8 kg l'altro giorno, però lui va con le bombole. Ho preso con la canna mia, però di banchina, sardina. Ho visto la canna che praticamente si spostava piano piano, la lega camminava, è arrivata la verrata, cazzo, si è attaccato con una zampa al molo. Tutto preso un quarto d'ora in tira per tirarlo fuori, poi con il mio amico gli ha messo il coppo sotto, se ne stava scappando l'ha preso col coppo. Quale fortuna? Fortuna però l'ho preso. Se non piove a Maria, stava la roba che mando, il mio coppo è grande, mica. Se arriva dal coppo, fatti il conto. Dani. Via. Ehi, dai, ci sentiamo domani, ci becchiamo domani mattina, allora, alle 7:30, ok? 7:30 alle 7. Allora Gianni, adatto 20 corti da nord-est, porta 5-6. E nuvolosità. Ma pioggia non ce n'è. Brava. Ripeti Angelini. Alle 7? Facciamo alle 7, se no arriviamo troppo tardi, mi Angelini. Sì, alle 7 a casa tua domani mattina, ok. Ciao, buonanotte a tutti, dai, che passo in corretti. Salutoni Cristian, Bombolo, Gianni, Franco, poi non mi ricordo chi altro c'era, Luca, se ci sei ancora. Pagava, dai, ciao Angeli, ci sentiamo, stiamo rientrando anche noi fra poco intanto, e se no domani non ce la faccio. Buonanotte Angeli, anche da parte mia. Ciao Angeli, ciao anche da parte mia. pagava Santoni e Cappierti. Ok dai, ciao, buonanotte. Ciao Nadia, tranquilla, vai, ciao ciao. Buonanotte Cappadonia Nadia. Ciao ciao Nadia, ciao. Ciao. Ciao. Franco. Ciao Fran, buonanotte, ciao Cristian. Ciao Geri, buonanotte. Ciao Nadia. Ciao ciao. Ciao. Franco. Brava. Cosa ti posso raccontare? Sono tutto il giorno con il gatto. Pucato sei, vero? Cioè, il baracchino proprio vicino al letto. Ah no, così si fa. Infatti, adesso il corpo, un corpo a palmare nuovo, di quelli seri. Palmare l'ho tu? Sì, perché la stavo non la causavo tanto. Non ti piace? No, mi piace, ma per me è scomodo adesso. Sì. No, anche io li uso così. Come però anche il microfono della tavola piacciono a me. Però a me piace di più così. Cioè, più normale così. Pianica 425. E ascoltate che bagata. Luca, ho scacciato le persone, se no ti schiaccio a te adesso. Tappa, non me ne sono accorto, c'ho il volume basso. Sta parlando. Tonio. Ah, Bobolino, a tu. Eia, mi schiaccia. No, ma sono anche accorto, non so, non è che guardano lo Smith, c'è il volume basso e sono entrato così. Di prepotenza. Oh, io vado a dussa, Bobo. Cosa c'hai? E allora? Io ho l'infezione dentro, ho messo. Sono crepato, a tu, crepato. Sono sul posto. Sul posto devi usare il primo, lui è sul posto. Tu usi i suppostori, le supposte non ti fanno niente. C'è Zara. È vero. Sono i famosi come Luxuria. E lì scrive che sia una donna. Ah, sto Amanda. Sto Armando. Poverino, lui, non si sentite più. Guarda. Luca. Luca è defunto. Sì. Franco. Un attimino che sto scaricando una base da su internet, un attimo. Devo scaricare 1000 blocchetti, ci viene. Ho capito, ciao! Devo scaricare 1000 blocchetti da 30, ci viene. Io, no, vieni so. Gratis. No, sei il vero, Kudu. Tu sei matto, sono 1000 blocchetti da 30. Ho già il freddo, se me lo chiedono. Ehi, non ti preoccupato, ma sei vicino di là. Non ti preoccupare, ci faccio buonissimo. E mi caricavo, Cristian, mi ripresa la pittura, il... vabbè, non da solo, lo scaricavamo in 7-8 persone, ma però sul camion, 1.500-1.600 barattoli di pittura, pittura quella per i muri, e poi c'è l'altra, le altre, quelle piccoline, non ti passava più, però me lo caricavo, fa 25 euro. In un mese mi sono messo io la bellezza di 6.000 blocchetti da 30. Per dirti, no? Stamattina non mi ricordo come cavolo si chiama, la... il cane si è messo a abbagliare, bro. Guarda il proprio cane. Tu hai musica di amburo. Prendi, a tu. Musica di amburo. No, che bravo il cane. Cuccia! No. Sono un po' birichino, le fai gli spetti. Quei cani sono micidiali, Guarda, io avevo questo tedesco ed era tranquillo, ma che cagnolini sono peggio del pitbull. Domani sono andato a casa da una signora. Quella di questi cani proprio minoretti, non so neanche che... chi si pince, cosa è, ma che rioso, amare di bisiglia, non so quanto non li posso vedere, perché sono un po' terriosi, quanto mi si attaccato al ginocchio, amare di bisiglia, a te non ti posso curare. Ah, sei un pince sicuramente. Di cane gagatua, mi dico di minore. Sono un pince con i cuccioletti, bastardi piccolissimi. Ma ti riuso, mi cata mi sa attaccata un po' a rugoso. Ah, alla gamba. Mi sa va a dire, ma te ne andate un po' figurato. L'altro giorno è morto, ma sono sotto un cane, ma sono sotto, figurati. Tu? Questo cane si è portato avanti, ero neanche a 30. Oh, ho abbagliato, se sono avanti a me. Io se posso passare direttamente in moto. Va. Se non si impuscia, lo devi dire va. Che si è fuggito? Ecco, spostati allora. La prossima volta si ricorda che si deve spostare. Cioè, Luca. E ancora un attimo, sto scaricando roba da internet. Scarica. Ciao. E chi è l'anziano ancora? Yeah. Vabbè, va bene, castagli da cavalieri, è un gioco. Sono le 10 e 20, passate. Senti che faccio la TV, che è? Tanto già pago io qua. Beh, e cosa vuoi consumare la TV? Beh, cioè, mi hanno legato la lampadina, come si dice, che da 15 watt, però mi fa, dice, mi... Bah. Vabbè, mi fa un po' di luce comunque, a 75 watt, però è una lampadina da 15, quella dell'Enel. Risparmio? Quello che fa energetico, sì, quella risparmio, sì. Fa un po' di luce, un lampione in bari. Quello bisogna usare lui, non ne hai mai usato tu. Questo è quello a casa. E poi durano un bel. Quello bisogna usare, se no si spreca troppa energia elettrica. E a casa non ho una pena normale, sono tutto a basso consumo a casa. Cappa, anche noi. Noi abbiamo sia nel piazzale, due lampioni, 10 dentro a casa. Consumare un bel sa cosa. Curati, allora tutto a basso consumo, va? Se non fai così, cioè, no, bolletta allucinante. Ma adesso ci sono anche i contratti che puoi pagare anche di meno, queste cose qua. Devi cercare di risparmiare. Quello sempre, cioè, tutto risparmiare il possibile. Però occhio alle fregature quando risparmi. Pagata. Così, oggigiorno bisogna attrezzarsi il pantalone, che la roba è cara. Vecchio pure. Pagata. Anni. Già. Avanti, Chris. Sto meglio è andato, bello? Cosa, Chris? Ci ho ucciso ancora? No, negativo, là. Si è attaccato. Peccato, bro. Piace un po' gomacca, bro. Ma sai qual è il curva però? Nell'ultima, Ce n'è già ucciso uno, è morto già un ragazzo, è morto. E quanto è smaccato in due la testa? Boh, non lo so questo, non so che è morto. Se è andato piano ce l'avrebbe avuto ancora sana. Fatto trauma addominale, trauma dorsale, cioè si è sbagliato la schiena, si è sbagliato la schiena direttamente uno lì. Già. Se che vuoi che ti dica, basta andare piano. Ma so, eppure gente, sono figli di papà quelli che si fanno più del male. Sì, perché va nei di là, non ha fottuto da trattare male di macchine, di moto. C'era uno l'altro giorno che riusciva il fumo dalle gomme da quanto stava camminando. Sperata a lui, che ha solo da buttare. E fumavano le gomme, ha fatto quella curva, lui dicendo che si ammazzava. Come la macchina sportiva. Non le travagliano. Chissà, quelli, quando furono quelli, c'è il papà che finanzia. Intanto ci ha ballottato le gomme, non avevo nulla, lui va con i buoni di là e si rigiamba. E ha fatto il gioco. Si nagano la gatta, come hanno fatto quello con la foce, che le hanno sequestrate, i carabinieri. Sembra gomorato. La gente beve e se ne frega. Cammina in macchina, uccide le persone. Pagata. Cioè, sono gente incosciente, sono gente che soldi non le lavora. Se l'avrebbero lavorati, prima di fare trattare così la macchina, ci avevo pensato un bel volto. Purtroppo la gente è fatta così e non ha tutti i la gente. Per carità, per carità. vita è quella, e quella ci teniamo. Quello sì. Lo so, però troppe cose sbagliate ci sono. C'è quello che intende per lavorare per tenersi una cosa, c'è quello che lo tiene così per poco, per poco. Io sono fatto macchine di 1.400 turbo che hanno più cavalli di un 2.000. Lo sai, 1.200 non cammina, 1.200 di oggi non cammina, camminano un bel... Questo è l'amico dell'Alfa. No, qualche macchina in città nuova, me la sono persa. L'amico, 1.400 turbo, 258 cavalli. L'appunto 1.400 turbo, 150 cavalli, con la modifica, 200 cavalli. A casa o che cosa? La modifica dalla casa, 200 cavalli. Un suicidio. Per l'appunto poi, non so cosa sia. Proiettile. La tubo iniezione, la bara. Bisogna, cioè, le macchine sono molto potenti, seconda gara dai si scebbiteggia, già le 1.400 che erano uscite era una bomba, c'era anche il 1.800 c'era di macchina, cioè di punto. HGT, dell'altra versione vecchia, e qua camminava lo stesso, non la schingiola? È un video che camminava, Il gruppo. Sì. Tu pensa, se il BMW 2005, no, il 2005 diesel ha 150 cavalli, appunto turbo di, a turbo ne ha 150 cavalli, 1.400. Però bisogna considerare che il BMW è un macchinone, la punta è piccola ed è molto più veloce. Appunto, ascoltate i Cimental, in quanto era alla BMW. Ma se li metti come prestazione, se li metti in pista, appunto, me li vado di mescere. Solo che appunto è pericolosa. Ma come potenza è molto più veloce. Come potenza il motore è bestiale, perché cammina benissimo, però è... Non la dare ai ragazzi da adesso, con la macchina lì. Beh, certo, bisogna darla a gente che fa un po' camminare. Le fuma il cervello. Va, perché altrimenti glielo fuma tutta un'ora, non per altro. Se basta una manovra sbagliata, la di una persona di una macchina. Cioè, è così. Ho visto gente con la macchina grossa a capo in giosso. Ah no. Molti spiegano che hanno le macchine grosse, si muovono a scorazzare e tutto quanto, però non fanno mai conti con l'asfalto. Mio cugino, macchina grossa, l'ho trovato incastrato nella mia macchina e serve per miracolo. Pagava. Sono appunto una laguna. C'è il dado. Chiedo in cunetta e ci ha ammazzato. Mi stavo dicendo una cosa qua. Gianto. Ho detto che mi stavano dicendo una cosa qua. Da dirla. No, non si può dire. Aspetta. Stavo dicendo una cosa qua, è macchina che non posso dire qua, tutto qua il discorso. Ci vediamo verticale, era. Va. Già, che so già mai conosci, un tipo alto 1,75 con molta barba. Gappa. Bianco un po', dai, che io sono andato una cosa, dai, ci sentiamo dopo. Io sono qua, dai, sono addormentato, dai. Va.